Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati e rieccoci alla nostra finestra sul cortile. Siamo ammalati di pessimismo e di catastrofismo? Secondo certi politici, sì, loro tentano di farci credere che la crisi economica sia solo un fatto psicologico e che si tratti soltanto di recuperare un po' di fiducia e di ottimismo e le cose andranno meglio. Ma forse si può anche rovesciare il ragionamento. La crisi ci ha colto di sorpresa, sbriciolando di colpo la nostra fiducia nel progresso. Eravamo impreparati. Forse dobbiamo invece imparare a essere pessimisti, come lo erano gli antichi stoici, come ci hanno insegnato i padri della Chiesa. Essere preparati al peggio ci aiuta a vivere meglio. Di pessimismo e di ottimismo parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma parleremo anche della bevanda più cara ai russi e a James Bond e di altri temi che ora ascoltiamo nel nostro sommario. Stati Uniti. Lezioni di pessimismo di Seneca per non arrivare impreparati alla crisi. Spagna. Fatevi il quadro da soli. Al Museo Thyssen i visitatori possono ricreare i capolavori. Russia. Un libro racconta la storia di Piotr Smirnov, il fondatore della vodka più venduta al mondo. Israele. Matrimonio senza sesso? Un rabbino dispensa consigli alle coppie in crisi in un nuovo serial TV. Giappone. Arrivano le storie horror stampate sui rotoli di carta igienica per combattere i fantasmi e gli spiriti malvagi che infestano la toilette. Germania. Vacca che trovata! Perché l'idea di addomesticare la mucca ha cambiato la storia umana. Le consolazioni del pessimismo è il titolo di un articolo di Alain de Botton sulla rivista americana City. Alain de Botton è scrittore inglese, è un bravo divulgatore di filosofia, autore di vari libri, l'ultimo dei quali è L'architettura della felicità, pubblicato in Italia da Longanesi. E in questo articolo Alain de Botton ci esorta in qualche maniera a ritrovare le ragioni per essere pessimisti, e lui dice che la caduta, insomma, della crisi finanziaria, in particolare il collasso di Lehman Brothers, che hanno colto un po' tutti di sorpresa, dimostrano una cosa, che parafrasando Roosevelt, la cosa di cui dobbiamo avere più paura è la speranza stessa. Notoriamente la battuta di Roosevelt era che la cosa di cui dobbiamo avere più paura è la paura, mentre invece, sostiene de Botton, il problema vero è che noi per due secoli l'umanità è stata abituata a pensare in termini ottimistici di una crescita continua. Di fatto invece questa depressione improvvisa, questo collasso dei mercati finanziari internazionali ci ha colto impreparati, e allora forse dovremmo apprendere dagli antichi sapienti l'arte del pessimismo, dell'essere preparati al peggio. E di queste scuole di pensiero de Botton ne elenca due in particolare: la filosofia stoica romana e i padri della Chiesa, i cristiani delle origini. E in particolare si sofferma sul pensiero di Seneca, che della scuola stoica romana è stato un po' il massimo rappresentante, che essendo vissuto in un periodo di difficoltà economiche, finanziarie e di turbolenza politica sotto il regno dell'imperatore Nerone, Seneca aveva in qualche maniera imparato a vivere nel, così, in una sotto l'incubo di un pericolo incombente. E proprio per temperare il senso di ingiustizia di fronte alle sciagure della storia, Seneca insegnava che le disastri, sia naturali sia prodotti dall'uomo, fanno parte delle nostre vite. E questo vale anche per l'insegnamento cristiano, che punta sul fatto che gli uomini sono creature imperfette, che la perfezione non appartiene al regno del terrestre e che qualsiasi essere umano porta delle macchie in sé. Quindi non è possibile pensare, insomma, a un paradiso in terra, e tutta la felicità è rimandata ad una vita ultraterrena. Ecco, ma intanto mi dicono che ci ha raggiunto al telefono un ospite a cui diamo il benvenuto. Salutiamo Maria Bettetti. Benvenuta. Ciao, direttore. Ci diamo del tu, perché Maria Bettetini, storica della filosofia, insegna estetica allo IULM di Milano e collaboratrice del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, quindi ci daremo del tu. Ecco, Maria, tu conosci molto bene questi autori, tra l'altro Maria ha curato un'edizione molto importante delle Confessioni di Sant'Agostino. Ma il cristianesimo, secondo te, ha ancora un potere consolatorio di fronte ai rovesci, per esempio, dell'economia finanziaria, oppure di fronte ai grandi disastri planetari, anche dovuti al clima, e a tutte queste minacce che ci incombono, le pandemie e queste paure che ogni giorno ci vengono... Le influenze. Esatto, insomma, viviamo in un incubo quotidiano, no? di catastrofi sempre annunciate. Sì, ma guarda, intanto vorrei fare un chiarimento, perché quando noi parliamo di ottimismo in questo momento, soprattutto in Italia, sembra che parliamo essenzialmente dell'andamento delle borse o dell'andamento comunque, sì, certo, della situazione economica. Invece, e quindi il pessimismo sembra intendersi come un'accettazione della povertà, diciamo, alla fine, della malattia anche, ma soprattutto della povertà. Quando invece parliamo di un pessimismo, un ottimismo stoico cristiano, adesso veniamo a quello cristiano, non trattiamo di questi argomenti, siamo un po' più a fondo, anche siamo in termini un po' più ampi, per cui il cristianesimo non ha una funzione consolatoria nel senso banale con cui si è inteso spesso, non ti preoccupare, soffri qui, anzi più soffri adesso, poi dopo più sarai contento. Questa è una lettura molto, certo, molto sciocca, molto superficiale. I padri della Chiesa cosa dicevano? Dicevano: è inutile farsi delle in maniera più o meno delicata, più o meno pesante, perché erano anche tempi sanguigni, quindi è inutile farsi delle illusioni su un paradiso in terra. Il paradiso in terra c'era, l'abbiamo perduto, l'età dell'oro, che comunque non è parte solo del retaggio cristiano, no? Tutte le religioni, tutte le visioni con un minimo di spiritualità hanno questa idea di un'età dell'oro. Quello l'abbiamo perduto, adesso noi siamo anime malate, come hai detto tu giustamente. Portiamo dentro di noi qualche cosa di malato, anche delle imperfezioni, insomma, il peccato originale. Sì, una malattia, no? Qualcosa che è anche presente negli scritti di Seneca, tra l'altro, la egritudo animi, che è molto importante, la malattia dell'anima. Calcolando che nasciamo con quest'anima malata, con questo corpo che poveretto fa quello che può, il cristianesimo dice: ma qui siamo solo in un momento di passaggio, non brutto, perché comunque il mondo è buono, quindi non è giusto neanche parlare di un pessimismo cosmico, intendendo per cosmo questo mondo nel cristianesimo. È un mondo malato, ma alla base buono, perché comunque viene dalle mani, certo, di Dio buono. Certo. E poi però questo è solo il momento di passaggio. Il mondo a venire non sarà molto diverso da questo, perché noi riavremo i nostri corpi e tornerà tutto, ci saranno cieli nuovi e terra nuova. Questo è un passo dell'Apocalisse che spesso viene dimenticato e che invece i padri conoscevano bene, da cui si capisce come in verità noi non perderemo le cose, la realtà materiale e il nostro corpo che abbiamo adesso, semplicemente non ci sarà più la malattia. Turchia, diciamo, ecco. Ecco, terra nuova ma senza terremoti, insomma, ecco, diciamo. Esatto. Avremo, terra nuova ma senza terremoti, cielo nuovo ma senza pioggia. Senza carestie, senza, e così via. Ecco, ma non pensi che però, ecco, questa è una domanda che mi viene spontanea, insomma, non pensi che sì, la crisi, anziché ispirare una nuova frugalità, una riscoperta dei piaceri semplici, della modestia, eccetera, non ci faccia riscoprire invece il carpe diem, no? Un epicureismo edonistico per cui tutti si abbandonano alla pazza gioia perché tanto qui tutto finisce a schifio, allora godiamoci la vita finché possiamo. Sì, beh, sono, è una delle due possibilità. Intanto vorrei spendere una parola a favore degli epicurei perché... È una sola parola perché stiamo chiudendo. Stiamo già chiudendo, non mi è stato dire niente degli stoici. Allora, epicurei e stoici si somigliano in questo, cioè nel fatto di dire esistono i piaceri della terra, ma bisogna saperne godere con estrema misura, quindi paradossalmente gli epicurei in sé sono a volte più rigidi. Esortavano anche alla temperanza, per godersela meglio non bisogna eccedere. Ecco, grazie. Tutto la temperanza. Grazie, ciao. Maria Bettettini, a presto. A presto, ciao. Fatevi i quadri da soli. È la proposta originale del Museo Thyssen di Madrid, che propone per l'appunto ai visitatori un gioco che è intitolato Tu Ciudad en el Thyssen, la tua città nel Thyssen, cui propone una serie di quadri di autori famosi, da Claude Monet a Boudin a Marc Chagall, a Dario de Regoyos, città del mondo, insomma, da Londra fino al, oppure anche dei paesaggi come la scogliera di Etretat in Normandia, e propone di rielaborare questi quadri con l'ausilio di strumenti elettronici, in particolare di quel sito di immagini virtuali che si chiama Flickr, una grande banca dati di immagini, rielaborando insomma il modo come gli artisti hanno rappresentato questi luoghi, tenendo conto insomma delle trasformazioni successive. Sarebbe bello forse prendere per esempio il quadro di Boccioni, La città che sale, e rielaborarlo mettendoci i grattacieli dell'Expo. E andiamo in Germania, dove uno storico tedesco, Florian Werner, ha scritto una storia culturale niente meno che della mucca, perché l'idea di addomesticare la mucca, nata circa 10.000 anni fa, ha cambiato la storia umana. Senza di lei staremmo molto peggio, non solo perché ci mancherebbe il gelato. Se infatti della vacca si utilizzano innanzitutto la carne e il latte, moltissimi sono gli altri oggetti d'uso quotidiano ricavati da questo bovino, come pettini, tasti da pianoforte, rossetti, stivali, senza contare che la sua cartilagine fa miracoli nella chirurgia plastica. Ma come spiega Florian Werner, tutta la nostra cultura è permeata di allusioni, richiami, fantasie e riti legati alla mucca, che in certi luoghi è simbolo di stupidità, in altri di santità. Sarà per questo che, come nota il filosofo Bruno Latour, la vacca obiettiva non esiste? La finestra sul cortile. The King of Vodka, il re della vodka, è il titolo di un libro della giornalista americana Linda Himmelstein dedicato alla figura di Piotr Smirnov, il creatore della più importante, più celebre marca russa di vodka, un personaggio straordinario la cui vita si snoda dalla corte dello zar attraverso la rivoluzione russa e approda fino nei film di James Bond, che prediligeva proprio questo tipo di bevanda. La giornalista Linda Himmelstein ha incontrato questa figura di Smirnov attraverso uno dei suoi discendenti, che è andato a trovarla a New York facendole vedere tutta il suo albero genealogico, e dicendo che era a caccia di quelli che in qualche maniera avevano privato la famiglia della proprietà del marchio. E di qui nasce l'idea l'idea, insomma, di raccontare la storia di questa dinastia ridotta in povertà dalla rivoluzione bolscevica, che, come è noto, insomma, aveva espropriato tutti i proprietari, gli imprenditori delle loro imprese. E così accadde anche a Smirnov, il quale aveva raggiunto un livello di benessere straordinario ai tempi degli zar, proprio come fornitore della dinastia russa. Era arrivato a possedere 133 milioni di dollari ai valori attuali, e i figli purtroppo invece dilapidarono questa ricchezza proprio bevendo e dedicandosi alle donne e agli altri piaceri, come per esempio andavano in giro alle corse di cavalli e spendevano tutto quello che loro padre aveva guadagnato. Ma dell'avventura della vodka e del suo creatore parliamo con un ospite che abbiamo al telefono, al quale diamo il benvenuto alla finestra sul cortile: Carlo Rossella, giornalista, scrittore, presidente di Medusa Film. Rossella, tu hai scritto un libro intitolato per l'appunto Vodka, superalcolice, socialismo reale, pubblicato da Mondadori. Tu associ proprio il consumo di vodka alla storia dell'URSS, no? Però nella Russia di oggi non si beve più vodka? Nella Russia di oggi si beve moltissima vodka. È stato fatto l'altro giorno un provvedimento da parte del governo russo per cui viene proibita la vendita di vodka ai minori, ed è la prima volta che succede nella storia russa, perché i minori si potevano comprare tranquillamente la vodka e si potevano ubriacare. L'ubriachezza, l'alcolismo cominciava sin dalla più tenera età. Ai bambini, per farli addormentare, gli davano un po' di vodka. Questa è la tradizione anche della campagna russa, che poi non era nemmeno una vodka pura, era il Samogon, che è una vodka alcol metilico, quindi ancora più dannosa alla salute. La vodka ha rovinato l'URSS, la vodka ha rovinato la campagna russa ai tempi dello zar, e anche una parte della buona società beveva champagne, e la vodka ancora adesso fa dei grandissimi danni. Basta andare nelle città di provincia, nella grande provincia russa o nella periferia di Mosca, anche non ci sono più questi localini al centro di Mosca dove si entrava, da una bottiglia di vodka si beveva mentre era tipica, no? Certo. E si mangiavano dei cetrioli, oppure si mangiavano delle robacce che si mangiavano ai tempi, ecco, non ci sono più questi posti, poi si continua a bere vodka e i russi continuano a bere vodka. Se uno l'ha, mi è capitato una volta spesso di chiedere agli alberghi, agli camerieri, ma i russi bevono sempre la vodka in camera, c'è bottiglie e vodka di vodka in camera, magari i russi anche miliardari che si bevono la vodka, e quindi la vodka è veramente un vizio molto molto compenetrato nella società russa. Ecco, però i nuovi ricchi russi adesso hanno scoperto i vini italiani, bevono soltanto Sassicaia, Ornellaia, tutti i vini che finiscono in aia. Sempre bevuto del gran vino, ecco. Anche molto vino e vodka e vino, si comincia con la vodka, si continua con il vino e poi si chiude, non si sa bene con che cosa, si chiude abbandonati sul tavolo di un ristorante, magari ubriachi. E però adesso invece ci sono ristoranti di lusso a Mosca e che costano, dire di Dio, 300 euro a testa anche, certo. Con dei vini italiani molto raffinati, costosissimi, molto costosi, e con dove fuori ci sono queste macchine blindate con le guardie del corpo, con le tute mimetiche, con il mitra in mano. Questa è una scena che si vede spesso a Mosca, ed è una scena a protezione. Sono guardie a protezione dei personaggi, perché con quello che bevono in genere poi rischiano di ammalarsi. Poi ci sono gli astemi come Abramovic o come i grandi tycoon che bevono molto poco. Berezovsky beveva poco, Abramovic beve poco, Kotorkovsky beveva quasi niente, era astemio, lo stesso Putin beve pochissimo, quasi niente, però poi ci sono i miliardari, bevono poco, poi ci sono i nuovi ricchi che bevono come sono convinti che bisogna sbronzarsi col Crystal. Allora ci sono le Magnum di Crystal con le quali si fanno le battaglie nei locali russi alla moda, come fanno i corridori di Formula 1 quando vincono un Gran Premio. Certo. I corridori di Formula 1 lo fanno con una champagne, diciamo, non normale, loro lo fanno con una Magnum di Crystal che a Mosca costa quasi $2,000. E beh, però intanto, insomma, i produttori europei ci guadagnano anche loro, insomma, non soltanto lo Stato. E non solo, non solo i produttori di vodka. E non solo lo Stato russo, ecco appunto. Comunque il paese in cui si beve di più al mondo è la Russia. Noi ringraziamo Carlo Rossella, buona giornata e a presto. Grazie, arrivederci. Ci spostiamo in Israele, sul Jewish Journal leggiamo di una nuova serie televisiva che andrà in onda sulle TV israeliane da settembre e che è dedicata alle crisi matrimoniali, ma con un protagonista piuttosto particolare, un rabbino che dà lezioni alle coppie su come superare queste crisi. Siete intrappolati in un matrimonio senza sesso? Allora guardatevi questo serial con il rabbi Shmuli Botic e lui vi insegnerà come uscire insomma dai problemi per esempio dell'adulterio, delle molestie, della impossibilità di raggiungere l'orgasmo o semplicemente della freddezza che sopravviene nelle coppie di lunga data. Insomma, dopo la serie Casalinghe disperate avremo la serie Le coppie disamorate e guarite dal rabbino. E andiamo in Giappone, dove un'antica tradizione popolare vede i gabinetti popolati di spettri. E allora quale luogo migliore per leggersi una horror story? Soltanto che un editore ha avuto un'idea originale, addirittura di stampare questa storia dell'orrore su la carta igienica, su un rotolo di carta igienica. È praticamente un romanzo noir scritto da Koji Suzuki, l'autore di della horror story Ring, lungo 90 centimetri, che può essere letto solo in pochi minuti. Certo, per chi invece ha più tempo da destinare alla toilette, consigliamo la lettura dell'ultimo Faletti, che invece è lunghissimo e potrebbe essere stampato soltanto su rotoloni Regina che non finiscono mai. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Io ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande in redazione, Giorgio Matè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaverge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.